Sono fermo ad aspettare, con le ossa malandate, voglio solo respirare, camminare ed inciampare, e dico quello che mi pare. Vivo solo nel presente, non mi ha mai lasciato il segno l'opinione della gente. Sulla sabbia del mio tempo lascio orme più leggere, non so fingere un minuto verso lacrime sincere, e per promettermi un futuro decifrare il mio passato con la macchina del tempo degli errori che ho imparato. Sopravvivere al deserto, vuoto d'anime per sogni, per star bene con se stessi, regalarsi un'emozione, e l'arte di saper vivere è più preziosa dell'oro che non hai. Invecchiare non curante del mio tempo i suoi dispetti, getto l'ancora nel porto dei sopravvissuti affetti. Voglio mettervi al riparo da un'anonima corrente, non andate in mare aperto, perdersi non serve a niente. Il rimprovero abituale di non dare mai abbastanza, la difesa naturale, non avere dipendenza, ma l'arte di saper vivere è più preziosa dell'oro che non hai. Sopravvivere al deserto, vuoto d'anime per sogni, per star bene con se stessi, regalarsi un'emozione,